Diamo il benvenuto a Daniele Chiarella. Ciao Daniele. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao ragazzi, mi sentite? Ci sentiamo, sì, benissimo. Forte e chiaro. Ciao. Oh, bene, qui sei bene. Sotto il temporalone, che succede lì? Ma che ne so, sono qui vicino a Torino alla fine del mondo, è tutto scuro, diluvia, sono pure in macchina, quindi mamma, perdonatemi. Sai che non si capisce tutto... che sei di Torino? Non si capisce. No, per niente proprio, guarda, per niente. Senti, allora, lasciamo perdere la musica. Prima okay. domanda, sei di Torino, ma quindi tifi Juve o tifi Toro? Allora, io ovviamente tifo Toro, no? Perché non capisco niente di calcio. Però ovviamente ho un figlio che ti fa Juve. Hai il derby in casa proprio. Vabbè. È nato male. Allora, io tifo Juve, però al fantacalcio ho Belotti. Ah, quindi hai scelto proprio quello che in questo momento proprio... Che sta andando malissimo. Esatto. Povero Gallo. Mamma mia, povero Gallo. Vabbè, senti, vai piano, mi raccomando, visto che c'è questo tempo così brutto. Sì, sì, sì. Hai il salvagente con te, no? Un canotto. Dovrei salvarmi. A posto. Senti, il pezzo che abbiamo ascoltato, Abissi, è il tuo brano di debutto. Sì, il mio debutto come solista. Come solista. Così, sì, perché esatto. Sei fondatore della band Fanali di Scorta, però questo è il tuo debutto da solista. Sì, esatto, il primo vero debutto da solista. Ci ho avuto altri episodi prima, ma questo è quello ufficiale. Diciamo. Ok, senti, che cosa cambia, adesso mi dirai tutto, cosa cambia dal fare musica da solista al farla invece in una band? Ma allora, qui cambia proprio l'atmosfera e il progetto, cioè la mia band che ancora esiste è una band per fare festa, cioè con un'indole molto ironica, cacciarona. Invece qui è proprio un progetto un attimino più intimo, forse dovuto anche al fatto che anche se non l'accetto sto invecchiando anch'io, sono ancora giovane, dai, 40 anni, però comunque... Beh dai, 46 a fare giovane, delle... 46 sì, giovane. Infatti, voi di più, già lo sento dalla voce. Noi di più, sono molti di più, a voglia. Senti, come molto di più? Sto vocione profondo. Comunque è molto intimo il pezzo. Infatti, dicevamo, è un pezzo da ascoltare con, con una bella tazza di cioccolata calda in mano. Davanti al caminetto, magari. Sì, è un qualcosa di molto semplice. Noi, questo progetto è un progetto molto semplice e immediato. Infatti, molto scarno, come senti. Però è una cosa che proprio mi sentivo di fare così. Ma hai messo il via voce? No, sono senza via voce, ma okay. Qui sono assolutamente senza. Ok, no, perché ti sentivamo un po' male. Comunque, sì, si sente l'immediatezza, no? Anche la semplicità della... che poi è una cosa bella, te lo dico come complimento. Grazie. La semplicità è una, musica e testo che arrivano subito. Grazie. Sì, è fatto così. Proprio molti magari non potranno non capirlo, perché adesso magari gli arrangiamenti è un periodo anche... cui sono molto complicati o comunque hanno un certo tipo di musicalità. Queste sono canzoni veramente voce, chitarra, al massimo pianoforte. Più minimale. Però vogliono comunicare un'emozione. Ok. Un'emozione semplice poi. Io sono alla ricerca di semplicità in questo momento. Poi tu di comunicare emozioni e quant'altro, penso che te ne intendi anche, perché leggo che sei anche attore e scrittore. Sì, sono stato, provato, insomma... Sono 20 anni di successi, okay. Provo da ogni parte, ma non riesco, quindi va bene. Vabbè, tu prova. Però già provare è una bella cosa, è una gran cosa già solo provarci. Però noi ci siamo preoccupati un po', io e la Giulia, perché abbiamo letto nella tua scheda che sei sospeso tra neoesistenzialismo e urgenza comunicativa contemporanea. Io e la Giulia ci siamo guardati e ci hanno detto: ma che cazzo significa che è sospeso tra neoesistenzialismo e urgenza comunicativa contemporanea? Questo non te lo so dire neanche io, non so. No, vabbè, giustamente l'ufficio stampa ha scritto così ed è bellissimo. Infatti lo segno perché almeno mi fa sembrare artista, capito? Sì. Da una parventa. Però oggettivamente sono bellissime parole che cosa vogliono dire, sinceramente non lo so neanche io. Okay. però sono belle, dai. Sembra dando un tono un po' all'ambiente, ma anche io non so che cazzo voglia dire, diciamo. Beh, l'urgenza comunicativa contemporanea, ce ne hai parlato, il fatto di riuscire a comunicare semplicemente un'emozione. Esatto. Poi in un momento in cui ci sono un sacco di messaggi, è molto difficile comunicare ed essere semplici in questo momento. Se ci riesci, guarda che è un gran bel punto a tuo favore. È difficile perché io sto anche cercando proprio di asciugare il tutto, no? Ed è facilissimo cadere nella banalità, anche usando parole semplici, perché poi le parole semplici alla fine sono quelle più comunicative, perché sì, se uso una parola sì. semplice arriva più. Però è difficile, come dico, come dicevo, non cadere nella banalità. Ok. È un percorso molto difficile, diciamo. No, no, però è interessante, interessante. Poi uno esperto come te, un giovane esperto come te, un giovane con tanta esperienza come te, sicuramente riuscirà a trovare la chiave giusta. Daniele, noi ti salutiamo e ti auguriamo innanzitutto un buon ritorno a casa, perché sei grazie, capito che la situazione meteorologica è un po' complicata. Sto gonfiando il canone. Bene, bene. Senti, non poi... mi dico come, però... No, non ce lo dire. E poi un grande in bocca al lupo, e se passi da Bologna ti aspettiamo qua. Va bene, io vi ringrazio tantissimo, siete stati gentilissimi. Ma figurati. Invidio per la gioventù, però grazie mille. Ma galoppiamo anche noi per i 40, non ti preoccupare. Allora va benissimo, compari. Ciao Daniele. Ciao Daniele. Ciao, buona giornata.